Ta Fujiko Live Club. In studio Nevio Bencivelli. Ciao a tutti, Nevio al microfono, siete all'ascolto di Radio Città Fujiko 103.1 MHz in modulazione di frequenza stereofonica da Via Zanardi in Bologna. Naturalmente potete ascoltarci anche tramite il web scaricando l'apposita app dal nostro sito radiocittafujiko.it, assolutamente a gratis. Città Fujiko Live Club, la trasmissione che sta iniziando con la solita sigla di Eric Clapton e che si propone di farvi ascoltare un paio di ore di musica registrata dal vivo di tutti i generi o quasi, ma sicuramente di tutte le epoche. Oggi però è una giornata molto triste. Prima di iniziare vorrei dedicare questa trasmissione a un carissimo amico che si chiamava Gianni Gherardi. Grande appassionato di musica, grande appassionato di basket, grande appassionato di baseball, ma soprattutto grandissimo mio amico. E questa trasmissione è interamente dedicata a lui che ci ha lasciato lunedì scorso. Ma come diceva qualcuno più importante di me, the show must go on, e quindi andiamo avanti con la trasmissione che come sempre inizia con una novità, e oggi è una novità veramente succulenta, una novità che consta di 8 CD più un Blu-ray, si chiama Faces at the BBC ed è già nel titolo dice tutta. Faces sono stati un grande gruppo fondato nel 1969, allorché Steve Marriott lasciò gli Small Faces e i tre restanti, Kenny Jones alla batteria, Ronnie Lane al basso e la voce, Ian McLagan alle tastiere, si unirono agli ex Jeff Beck Group, Rod Stewart e Ronnie Wood, e fondarono questi Faces, che sono stati un grandissimo gruppo, purtroppo non vengono ricordati a sufficienza. Sono stati l'essenza, diciamo, di questo del rock di quel periodo in tutti i sensi, sia musicalmente che personalmente, sia appunto dal punto di vista anche di sostanze non propriamente legali. Comunque, la formazione originale, che è quella che è interessata a questo splendido cofanetto che si chiama Faces at the BBC, lo ricordo, è quella originale, quella che vedeva Ronnie Lane al basso, che però ha lasciato nel 1973, quando Rod Stewart divenne troppo ingombrante per lui, ma anche per il resto della band, che si sciolse poco dopo. Infatti lui fu sostituito da un bassista giapponese che si chiama Tetsu Yamauchi, e che con lui i Faces hanno tenuto botta, diciamo così, fino al 1975, anche se in realtà Poi erano praticamente diventati la Rod Stewart Band, su questo non ci piove. Allo scioglimento hanno fatto tutti una gran carriera, appunto Rod Stewart con la sua carriera personale, Ronnie Wood è entrato in Rolling Stones, Kenny Jones ha suonato parecchio con gli Who e Ian McLagan ha fatto un sacco di session e ha suonato un po' con tutti. E questo ottuplo, questo cofanetto di 8 CD più il BR, lo ricordo, più il Blu-ray, è veramente spettacolare. Chiaramente ci sono tutte le sessions che i Faces fecero dalla loro nascita fino al 1973 per la BBC, il tutto con il patrocinio di John Peel, che come sapete tutti è stato purtroppo un grandissimo DJ ed è il padre putativo di tutti noi che cerchiamo di parlare per radio e trasmettere musica. Andiamo subito ad ascoltarceli però con un brano che è l'essenza musicale dei Faces, Brutti, Sporchi e Cattivi si vorrebbe dire, ma Rod Stewart non la prenderebbe bene nel senso del brutto. Il pezzo si chiama Stay With Me, è stato registrato per una trasmissione che si chiamava Sounds for Saturday Show, chiaramente andava in onda al sabato, e è stato registrato al BBC Television Theatre a Shepherd's Bush a Londra il 26 ottobre del 1971. Il pezzo si chiama Stay With Me, loro sono i grandissimi Faces. We'll be right back. Per quel che mi riguarda, questo Faces at the BBC si propone tranquillamente come disco dell'anno, anche se in realtà, come dicevo, sono 8 i CD che sono inseriti insieme a un Blu-ray in questo cofanetto secondo me fa veramente faville. Stay With Me è uno dei brani più caratteristici della formazione dei Faces, che fra l'altro facevano un sacco di covers anche in questo cofanetto, ce ne sono tantissime, tutte molto belle. Il tutto è stato registrato il 26 di ottobre, quindi siamo quasi in territorio Record Day Today, fra una decina di giorni, del 1971, però fu trasmesso in TV, in radio solamente, il 1 aprile del 1972, quindi praticamente 6 mesi dopo. E nel corso delle mie trasmissioni vi ho spesso fatto ascoltare registrazioni effettuate dalla BBC per la BBC, che è l'ente di Stato radiotelevisivo britannico, ma questo penso che lo sappiate, ma non ho mai fatto una cosa mirata, diciamo. Stamattina la farò, e la prima parte della trasmissione sarà interamente dedicata a registrazioni effettuate dalla BBC per la BBC. E chiaramente la parte del leone la faranno i britannici, ma andiamo a iniziare con una coppia non britannica. Il primo che ci andiamo ad ascoltare si chiama Steve Earle, ha fatto, rarissimo fra gli americani, ha partecipato a una serie che si chiama BBC Radio 1 Live in Concert, il titolo già dice tutto. Sono usciti decine e decine di album a questo nome, quasi tutti britannici, alcuni diciamo al di fuori delle isole britanniche, tipo Steve Earle, che arriva dalla Virginia ma è praticamente cresciuto e vive da tantissimo tempo in Texas. Lui è attivo dal 1982, ha avuto un sacco di problemi legati alla droga e anche al possesso di armi, è stato anche in prigione, ma è un grandissimo artista, un grandissimo musicista. Per la cronaca, Rosa è stato sposato ben 7 volte, fra cui 2 con la stessa persona. Prima hanno divorziato, poi sono risposati, ma comunque cose strane al mondo. BBC Radio 1 Live in Concert è stato registrato al Town and Country Club di Londra il 29 novembre del 1988. Questo è il brano che apre tutto l'album e che è uno dei più famosi di Steve Earle, si chiama Copper Road. chains around my feet, but I'm not free. La BBC contribuì non poco alla fama di Bob Marley and the Wailers in quel della Gran Bretagna, e da lì poi si è espanso in tutto il mondo. Però pochi sanno che in realtà la band iniziò nel 1963 come Wailers solamente. Poi, appunto, col crescente successo della band e soprattutto della figura carismatica di Bob Marley, la casa discografica impose di rinominare la band come Bob Marley and the Wailers. E infatti Peter Tosh, che erano, e Bunny Wailer, che erano i due compagni di avventure di Bob Marley nei Wailers, se ne andarono per una propria carriera solista molto fortunata nel caso di Peter Tosh, un po' meno in quella di Bunny Wailer. Il tutto, questo scioglimento, diciamo così, questa divisione, avvenne nel 1974. Catch a Fire è il quinto album in studio della band Wailers, e fu pubblicato come long play naturalmente nell'aprile del 1973. È stato ripubblicato come 50th anniversary, 50° anniversario, in 3 CD nel 2023. In questo caso, contrariamente a quello che succede di solito, non è il terzo disco quello live, ma è il secondo, il terzo è quello dedicato alle amenità varie. Il tutto è stato registrato al Paris Theater di Londra il 24 maggio del 1973. Il brano che ci siamo ascoltati, forse l'avrete capito perché l'ha detto almeno mille volte, si chiama Concrete Jungle. Thank you. Si sono formati a Canterbury, Gran Bretagna naturalmente, e nel 1966 sono tuttora attivi con una serie innumerevoli di stop and go, di scioglimenti e riformazioni. E tanto che adesso non ci sono più membri originali, anzi da un po' che non ci sono più membri originali, dire il vero, e loro si chiamano Soft Machine. So che non ci crederete, ma il 22 gennaio del 1973 i Soft Machine, con questo tipo di musica, niente meno, imballarono, ripeto, imballarono, vuol dire tutto esaurito a tutti i livelli, il Palazzo dello Sport di Piazza Azzarita qui a Bologna. Un avvenimento che credo adesso sia addirittura impensabile, inimmaginabile addirittura, però è successo, ve lo garantisco, io c'ero e posso farne sicuramente testimonianza. Soft Machine sono una delle poche bands che hanno due volumi della serie BBC Radio 1 Live in Concert. Questo è il secondo, è stato registrato al Paris Theatre di Londra il 20 luglio del 1971, ma anche in questo caso, come in quello dei Faces prima, è stato trasmesso solamente il 2 settembre dell'anno dopo, quindi più di un anno dopo. E il brano che ci siamo ascoltati si chiama All White, loro erano Soft Machine. Arriviamo adesso alla registrazione, per meglio dire, più anziano che ci andremo ad ascoltare. Infatti arriva dal gennaio del 1970, il 4 gennaio addirittura. Sto parlando di una band che si chiamava Tyrannosaurus Rex. Attenzione, non ho detto T-Rex, ma Tyrannosaurus Rex, che erano un duo formato da Mark Bolan e Steve Peregrine Took. Mark Bolan suonava la chitarra e cantava, e Steve Peregrine Took suonava le percussioni. Erano un duo folk, diciamo così, folk psichedelico, dice qualcuno, che sono stati attivi dal 1967 al 69, quando Mark Bolan decise di cambiare assolutamente genere musicale, assoldare una sezione ritmica e diventarono T-Rex, famosissimi con il loro glam e con la copertura, diciamo, l'ala protettiva, per meglio dire, di David Bowie. Live in Concert è stato pubblicato nel 1993, ma appunto la registrazione risale al 4 gennaio del 1970 al Paris Theatre di Londra, che era il teatro Lower Regent Street, dedicato appunto a queste cose, a queste registrazioni. Purtroppo durò solamente 30 minuti, per cui probabilmente era un'apertura per una band più importante. Il pezzo che ho scelto per voi, ribadisco, Tyrannosaurus Rex, il pezzo si chiama Deborah. Always look like a Zebra. His sunken face is like a galleon, bored with mysteries of the Spanish main. Debra, Dagony, Dagony, Dagony, Dagony, Dagony, Dagony, Dagony, Dagony, Dagony, Dagony, Dagony, Dagony, Dagony, Dagony, Dagony, Dagony, Dagony, Dagony, Dagony, Dagony, Dagony, Dagony, Deborah. Always dressed like a conjurer, it's fine to see your young face hiding in the stallion that I'm riding, Deborah. La da da da da da da. Juggery jug and juggery jug and jug. La da da da da da da. Nine, nine, nine, nine, nine, nine, nine, nine, nine, nine, nine, nine, nine, nine, nine, nine, nine, nine, nine, nine, nine, nine, nine, nine, nine, nine, nine, nine, nine, nine, nine, nine, nine, nine, nine, nine, nine, nine, nine, nine, nine, nine, nine, nine, nine, nine, nine, nine, nine, nine, nine, nine, nine, nine, nine, nine, nine, nine, nine, nine, nine, nine, nine, nine, nine, nine, nine, nine, nine, nine, nine, nine, nine, nine, nine, nine, nine, nine, nine, nine, nine, nine, nine, nine, nine, nine, nine, nine, nine, nine, nine, nine, nine, nine, nine, nine, nine, nine, nine, nine, nine, nine, nine, nine, nine, nine, nine, nine, nine, nine, nine, nine, nine, nine, nine, nine, nine, nine, nine, nine, nine, nine, nine, nine, nine, nine, nine, nine

L'avevamo citato, ed è, anzi l'avevo citato, ed eccolo qui Mr. David Bowie, che come dicevo prima, aveva preso sotto la sua ala protettiva i T-Rex, o forse era il contrario, comunque sono due cose sempre molto controverse. E Bowie at the Beeb, che è il soprannome, il nomignolo che la BBC ha in Gran Bretagna, è una compilation di tre CD, di cui il terzo è stato registrato al BBC Theatre, che è poi sempre il Paris di prima, il 27 giugno del 2000, ed è probabilmente, anzi quasi sicuramente, la registrazione più nuova che ci ascolteremo questa mattina, dopo quella più vecchia, che era quella di prima, dei Tyrannosaurus Rex. Il pezzo è This Is Not America. L'ho scelto perché questo brano è stato scritto da David Bowie insieme a Lyle Myers, che è il tastierista della band di Pat Metheny, e da Pat Metheny stesso, che sarà in concerto qua a Bologna prossimamente nell'ambito del Festival Jazz, del Bologna Jazz Festival, che ha sempre delle bellissime cose da andare ad ascoltare, che fa veramente faville. Due band che vengono dalla stessa città, anzi due bands all'inglese. La città si chiama Conway Island, nell'Essex, praticamente diciamo un grosso sobborgo di Londra, ma comunque la prima che ci andiamo ad ascoltare è quella che è stata considerata, che è tuttora considerata, la band leader nell'ambito del pub rock, questo genere prettamente britannico, che è nato nei pubs, appunto, dove attualmente non tanto, ma una volta praticamente tutti i pubs londinesi, e non solo britannici, avevano serate in cui suonavano band solitamente nuove, e ci fu questo genere che ha visto i Dr. Feelgood in prima fila. Live at the BBC è un dischetto che è stato assemblato con varie registrazioni. Quello che ci andiamo ad ascoltare, fra l'altro, anche le Dr. Feelgood non hanno più nessun membro originale al momento, anche se sono tuttora attivi dal 1971. Il brano che ci ascoltiamo è quello più famoso, tra virgolette, dei Dr. Feelgood, si chiama Roxette, è stato registrato ancora una volta al Paris Theatre di Londra il 14 settembre del 1975, con la line-up originale, quella che vedeva Libri Low alla voce e Wilco Johnson alla chitarra. Roxette. Yeah. crucifixion. Don't need no competition. Non mi stancherò mai di dire che Eddie and the Hot Rods avrebbero meritato maggior fortuna, maggior successo, ma purtroppo ciò non è accaduto, anche se secondo me meritavano, perché oramai il loro tempo è passato, meritavano veramente più di tanti altri. Anche loro, come dicevo in precedenza, vengono da Canvey Island, come del resto i Dr. Feelgood, parlo formazione originale naturalmente, e sono attivi dal 1975 con alcune interruzioni. Una delle interruzioni è stata nel 2019, quando l'unico membro originale rimasto e leader della formazione, Barry Masters, il cantante, è morto. Però dopo gli altri membri hanno deciso di continuare sempre con il nome, con il titolo Eddie and the Hot Rods. Questo BBC Radio 1 Live in Concert è stato registrato, guarda caso, al Paris Theatre di Londra il 16 aprile del 1977. Do Anything Gonna Do, il brano che ci siamo ascoltati, era l'ultima cosa per questa prima parte della trasmissione. Come potete tranquillamente immaginare, ci sono ancora migliaia, non sto scherzando, di registrazioni effettuate dalla BBC per la BBC, e ci saranno sicuramente altre eventualità, altre possibilità di farvi ascoltare altre registrazioni effettuate dall'ente di stato radiofonico britannico. What about this particular time of the evening's events? We're going to try and work a new number on you that is one of the band's own arrangements. A thing called Miss Judy's Farm. Goes like this. Very similar to this anyway. Moody. Seconda parte di Città Fujiko Live Club, ogni mercoledì un paio di ore di musica dal vivo, un paio di ore di musica registrata dal vivo divisa in due parti. La seconda parte, che è quella che è appena iniziata con la novità che vi propongo quest'oggi, vale a dire super cofanetto dei Faces che si chiama Faces at the BBC, 8 CD e un Blu-ray che non vedrò mai perché non ho il lettore Blu-ray, ma questo è un altro discorso. Ed è una, mi avviso, una cosa veramente spettacolare, perché i Faces erano spettacolari. Si chiama Miss Judy's Farm il brano che ci siamo ascoltati, tratto da un Saturday Show, anzi Sounds for Saturday Show della BBC naturalmente, registrato al Shepherd's Bush Empire di Londra il 26 ottobre del 1971, anzi si sarebbe chiamato dopo Empire, allora si chiamava semplicemente BBC Television Theatre. Il tutto registrato il 26 ottobre del 1971, ma come vi dicevo, trasmesso praticamente 6 mesi dopo. Il brano, ripeto, si chiama Miss Judy's Farm. La seconda parte di Città Fujiko Live Club vede sempre inserita una rubrica che si chiama Recorded Today, che si propone di farvi ascoltare i brani nel corso della giornata stessa in cui sono stati registrati nel trascorrere degli anni. Tantissime cose registrate in questo giorno, ancora una volta tantissime, e ancora una volta il criterio di scelta è quello di un brano per ogni decade. Oggi andiamo molto velocemente perché ci sono veramente tantissime cose, praticamente 7 decadi, non so se ci riuscirò, ma comunque iniziamo dal 1960. Abbiamo in azione un sassofonista che risponde al nome di Julian Edwin Adderley, detto Cannonball. Lui veniva da Tampa in Florida, è morto oramai tantissimi anni fa, nel 1975, alla tenera età di 46 anni, e quindi è stato veramente un peccato. Il suo primo album come leader fu nel 1955, e negli stessi anni, nel corso degli anni 50, ha suonato per diversi anni nel quintetto di Miles Davis. E l'album che ci andiamo ad ascoltare si chiama The Lighthouse ed è registrato appunto in questo faro. Lighthouse vuol dire faro, per chi non lo sapesse naturalmente, e si trova a Hermosa Beach in California. Il tutto è stato registrato il 16 ottobre del 1960. La band vede anche impegnato alla cornetta il fratello di Cannonball Adderley, il fratello si chiama Nat. Il brano è un brano di Cole Porter, nell'arrangiamento personale di Cannonball, e si chiama What is this thing called love? Che cos'è questa cosa chiamata amore? Cannonball Adderley. Thank you. Jazz di qualità questo del Cannonball Adderley Quintet, registrato live al Lighthouse Hermosa Beach il 16 ottobre del 1960. Il pezzo, lo ripeto, un pezzo di Cole Porter che si chiama What Is This Thing Called Love. Passiamo velocemente agli anni 70, esattamente al 1976. Qui c'è una piccola storiella da raccontare, perché questa cosa che ci andiamo ad ascoltare è un promo che io acquistai tantissimi anni fa in vinile, che poi è stato ripubblicato in CD, che è quello che ci andremo ad ascoltare. Però nell'edizione in long play c'è anche la lettera d'accompagno che Little Steven, Miami Steve Van Zandt come si chiamava all'epoca, che fungeva un po' da manager a Soulside Johnny and the Asbury Jukes, mandò alle varie case discografiche per promuovere appunto questo album e nonché la band. Si chiama semplicemente Jukes Live The Bottom Line, questo album che, come dice il nome, è stato registrato nell'omonimo locale di New York il 16 ottobre del 1976. Il brano che ho scelto per voi, manco a dirlo, è un brano di Bruce Springsteen che è sempre stato molto vicino al suo amico Soulside Johnny e naturalmente anche al resto della band. Il brano si chiama The Fever. Ah, the fever for the good. Got the fever, oh, I got the fever. You make me sleep in the bed. Li abbiamo visti in concerto lo scorso luglio a Ferrara, Southside Johnny and the Asbury Jukes, questo però era l'inizio della loro carriera, Bottom Line di New York City, 16 ottobre 1976, The Fever, il brano che ci siamo ascoltati. Molto velocemente andiamo con il 1986, 10 anni dopo. Di scena una band che è molto legata alla musica reggae, anzi direi che fa musica reggae, che ha avuto un successo planetario incredibile, anche per me, veramente, veramente incredibile. Vengono da Birmingham, sono attivi dal 1978 e la line-up originale vedeva un miscuglio di razze e di provenienze notevoli in Gran Bretagna, Scozia, Galles, Giamaica, Irlanda e anche persino dallo Yemen. Hanno avuto un grande successo, come vi dicevo. Questo è il loro secondo album live, è uno degli album live che è stato registrato a Mosca prima della caduta del muro, infatti siamo nel 1986, l'ho già detto, il tutto registrato al Bluebird Café il 16 ottobre di quell'anno, appunto, di Mosca, Bluebird Café di Mosca. Si chiama Live in Moscow, appunto, l'album, e il brano che ci andiamo ad ascoltare parla di un topo in cucina, Rat in the Kitchen. Well, yeah. Il 16 ottobre del 1986 gli UB40 erano in concerto al Bluebird Café di Mosca, e tutto immortalato in questo live in Moscow, Right in the Kitchen, il brano che ci siamo ascoltati. Non ho bisogno di dire niente sui Red Hot Chili Peppers, tutti li conoscono e tutti sanno che sono attivi dal 1982, partendo da quello di Los Angeles, California. Hanno fatto un sacco di singoli con canzoni dal vivo. Questo singolo si chiama Aeroplane, è uscito in due versioni ed è un singolo uscito durante il periodo in cui nella band John Frusciante se n'era andato e era arrivato Dave Navarro dei adesso non ricordo più, ma ho un vuoto di memoria. Jazz Addiction, eccolo qua. Tutto registrato alla Hoy di Rotterdam il 16 ottobre 1995. Il pezzo si chiama Me and My Friends, Red Hot Chili Pepper. Front of the other, but sure feeling the rain. been a long way to the light. I made it to Manhattan. I built myself a nest. I meant to get right back to doing exactly what I do best. Plugging in an electric guitar and leading the band. Well, if you want to give God a laugh, tell her your plans. Summer in the city, withering in the heat, buzzing up and down to Bearsville and back to Hudson Street. And there in meditation, just closing my eyes, sitting, breathing, being still, I never felt more alive. Living one step at a time, in front of the other, it's sure feeling right. Healing on my mind. Been a long way, been a long way to the light. I spent the fall in transit, circling the moon, like a cat on a hot tin roof, or a fiddle without a tune. I found what I was searching for in Mrs. Caddy's book. I had to go there straight away and have myself a look. I flew into Scotland, anticipation in my bones. The old country welcoming me like a prodigal coming home. I knelt and kissed the tarmac in the wild Atlantic rain. I felt the proud Gaelic blood rising in my veins. Living one step at a time, putting one foot in front of the other, it sure feels right. Healing on my mind. Been a long way, long way to the light. Long way to the light. I spent the night in Glasgow. I flew to Inverness. I found the place and at the first I was not impressed. Nobody said hello. The faces let me count. Back then, how was I to know all that would unfold? I entered the sanctuary. I heard the voice of a girl sending out a circle of light clear across the world. I shuddered in the power like a seedling in a storm. I've been looking for this place since the moment I was born. I flew back to New York City, singing the big city blues, with the sound of fifth horn bass still clinging to my shoes. I tried to restart my life, but the life I knew was gone. I had to let go of everything, but that's another song. Living one step at a time, putting one foot in front of the other, sure feeling right. Healing on my mind. Been a long way, been a long way to the bedroom, overlooking Fendorm Bay, Clooney Hill in the distance, summer on the way. I'm watching the sailing boats bobbing to and fro. Time to hit the road, the only way I know. Living one step at a time, putting one foot in front of the other, it sure feels right. the light. L'inconfondibile voce di Mike Scott, da sempre, cioè dal 1983, leader dei Waterboys, Waterboys che hanno un turnover incredibile, dal 1983 ad oggi più di 70 musicisti sono entrati e usciti, a volte anche rientrati nella band, penso che sia più o meno un record. Karma to Burn è il secondo album live della band ed è come quasi tutte le cose dei Waterboys, molto molto bello. Long Way to the Light è il pezzo che ci siamo ascoltati, ma è un pezzo che arriva da un album solo di Mike Scott, che per certi periodi abbandona, diciamo, i Waterboys per tentare la carriera solista, ma non ha mai un grosso successo come solista, no? È una cosa che non capisco molto bene, perché tanto i pezzi dei Waterboys li scrive tutti lui, quindi non so bene come funzionino questi meccanismi. Comunque, il tutto è stato registrato al Warwick Center, anzi questo pezzo è stato registrato al Warwick Art Center di Coventry, in Gran Bretagna naturalmente, il 16 ottobre del 2003, perché ogni pezzo è stato registrato in posti diversi. L'album, lo ripeto, si chiama Karma to Burn, il brano Long Way to the Light. Piece of Iona. Il 2013 è l'anno in cui una band che si chiama Revivalists, che proviene da New Orleans ed è attiva dal 2007, ha registrato il brano che andiamo ad ascoltare. Il brano è contenuto nella ristampa del loro secondo album di studio, che si chiama City of Sounds, che è uscito nel 2012. Però due anni dopo, nel 2014, nel marzo del 2014, è stato ripubblicato con allegato un CD live, che è quello che interessa a noi naturalmente, registrato la Harvest the Music Benefit Show di New Orleans, Louisiana, il 16 ottobre del 2013. Il brano che ho scelto per voi si chiama Concrete, fra parentesi, Fish Out Water. Loro sono Revivalists. Come on, Siamo nel 2013, il 16 ottobre, in quel di New Orleans, a casa dei Revivalists, che hanno registrato questo show e lo hanno pubblicato nella ristampa del loro secondo album di studio, che si chiama City of Sounds, ristampa che è uscita nel marzo del 2014. Il pezzo si chiama Concrete Fish Out of Water. Andiamo a concludere, pare che ce l'abbia fatta a fare ben 7 decadi, siamo partiti dagli anni 60 e arriveremo al 2022. Prima però vi voglio ricordare che vi siete ascoltati Città Fujiko Live Club, un paio di ore di musica dal vivo ogni mercoledì dalle 10.30 alle 12.25, molto velocemente, quindi andiamo ad ascoltarci Shooter Jennings and the Werewolves of Los Angeles. Shooter è il figlio di Waylon Jennings, famosissimo cantante, chitarrista, compositore americano, e Jesse Coulter, sua moglie altrettanto famosissima negli Stati Uniti, chitarrista, cantante e compositrice. E Shooter Jennings ha una carriera molto bella con diversi album live, 5 per la precisione, ma la sera del 16 ottobre del 2022 ha assemblato questa band fittizia che si chiama Werewolves of Los Angeles per fare un tributo a Warren Zevon. Infatti l'album si chiama Do Zevon. Ci andiamo ad ascoltare, sono tutti pezzi naturalmente del grandissimo cantautore californiano Warren Zevon, registrati al Rebels and Renegades Music Festival di Monterey, California, il 16 ottobre del 2022. Non poteva essere che Werewolves of London a concludere la trasmissione di oggi. Vi ringrazio per l'ascolto, ciao a tutti da Nevio. This is so much fun, so many good bands out here today, such an honor to play with all of them. It's such an honor to play all this Warren Zevon music in front of you guys. If you know this one, please sing along. Streets of. to meet his tailor.